Buonasera cari radioascoltatori, benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì, sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera in studio Annalisa e Maurizio, il nostro nuovo collaboratore in redazione, beh, ormai non è più Ciao nuovo. Annalisa. Ciao Maurizio, Ciao Roberto. benvenuto. Roberto Giava in regia e in collegamento la co-conduttrice dall'AIA in Olanda, Alessandra. Sì, buonasera. Una puntata di approfondimento su un tema di attualità, questa volta un tema di attualità italiana, Annalisa. Sì, Dopo tanti argomenti di attualità internazionale ed europea, pensiamo un attimo anche all'Italia, vero? torniamo all'Italia, ma torniamo ad approfondire un tema, quindi un tema legato all'attualità italiana, ritorniamo ad un filone che abbiamo già trattato qualche volta a Giro di Boa, i nostri radioascoltatori lo ricorderanno. Qualche mese fa avevamo commentato con i nostri ospiti il decreto Gelmini di riforma dell'università, mesi ancora prima, forse un anno prima, un paio d'anni prima, avevamo parlato anche con ricercatori sia che lavorano in Italia presso università italiane sia che lavorano all'estero. Avevo un po' cercato di cogliere i loro umori e le loro impressioni, quindi come stavo dicendo questa sera continuiamo questo filone. Questa sera parleremo tra poco con il nostro ospite in collegamento, tra le altre cose, del decreto del ministro Gelmini di riordino dell'università, decreto che è stato approvato il gennaio scorso. Questo decreto, Alessandra, come abbiamo visto preparando la trasmissione, cambia alcune cose. Sì, esatto, è un decreto che è stato presentato, come dicevi tu, dal ministro Gelmini, dunque dall'attuale governo, lo scorso novembre, e poi, essendo un decreto-legge, doveva essere trasformato in legge entro 60 giorni, pena di nullità, e difatti è stato trasformato in legge ad inizio gennaio di quest'anno ed è presentato come una legge che riforma il sistema universitario italiano. In questa legge, in questo decreto che poi appunto è stato trasformato in legge, ci sono diversi cambiamenti per il sistema italiano. Ci sono le cosiddette norme anti-baroni che introducono una verifica sull'attività di ricerca effettivamente svolta dai docenti, introducono delle riforme, delle modifiche per quanto riguarda i concorsi universitari, nel senso che viene introdotto il sorteggio dei commissari e nell'assegnazione dei fondi degli atenei viene previsto un vantaggio per le cosiddette università virtuose e una penalizzazione per quanto riguarda le università che vengono definite spendaccione. Però magari prima di parlare di fondi, io direi, Annalisa, se sei d'accordo, di introdurre il nostro ospite in collegamento. Sì, dunque, il nostro ospite in collegamento questa sera è Carlo Eugeni, dottorato, che si è dottorato, ha conseguito il dottorato presso l'Università di Napoli e ora lavora con un contratto presso l'Università di Macerata. Carlo dovrebbe essere in linea. Buonasera, Buonasera, sì, sono in linea. Carlo, e grazie per essere con noi, per essere in collegamento. Innanzitutto, Ciao Carlo. Ciao Maurizio. Innanzitutto, Carlo, ti chiedo se ti ho presentato quindi nel modo giusto. Ho detto che hai conseguito un dottorato presso l'Università di Napoli. In che cosa in specifico, in quale materia hai conseguito il dottorato? E ho menzionato che che ora lavori con un contratto presso l'Università di Macerata, quindi sarebbe interessante sapere per i nostri radioascoltatori di che cosa ti occupi. Sì, io ho fatto un dottorato di 3 anni all'Università di Napoli Federico II sulla sottotitolazione in tempo reale, cioè la sottotitolazione che si fa di programmi televisivi per utenti e non udenti. Poi adesso sto lavorando all'Università di Macerata già dal 2000. E 5 e insegno traduzione multimediale, interpretazione e traduzione francese. Carlo, dunque mi sembra di Sì. capire che sei una persona abbastanza esperta, se non magari molto esperta del sistema universitario italiano, visto che ti sei laureato in un'università, hai fatto il dottorato in un'altra università e ora lavori in una terza università. Dunque hai conosciuto diverse realtà. Ecco, Sì, esatto, sono una persona un po' anomala, nel senso che solitamente il dottorato si fa nella stessa università in cui si è studiato e poi piano piano si viene introdotto dai tuoi ex docenti all'interno del corpo docenti appunto della stessa università. Prima di chiederti di esprimere di parlarci della tua esperienza in queste tre sedi universitarie che tu hai frequentato o come studente o come lavoratore, ti volevo leggere giusto due frasi di un articolo che venne pubblicato nel gennaio 2007. Cioè, volevo sapere la tua opinione in materia. L'articolo incominciava così: adesso anche i docenti più disillusi citano il modello di Cosa Nostra come unico riferimento per descrivere la gestione dei concorsi nelle università italiane. Proprio nei luoghi dove si dovrebbe costruire il futuro prospera una figura medievale capace di resistere a ogni riforma, il barone. Sì. Direi che mi fermo qua, l'articolo è poi lungo 4 pagine, però credo che anche solo queste due righe siano abbastanza raccapriccianti. Tu cosa ci puoi dire in materia? Ma io dalle esperienze che ho avuto ho incontrato anche baroni. Il problema del potere in mano a pochi non è tanto che ci sia una persona che gestisce il potere come meglio crede, ma che purtroppo non lo fa per il bene dell'università, per cui si trovano persone non competenti a vincere dei concorsi che purtroppo spetterebbero ad altre persone. Non significa questo che l'università italiana sia tutta da buttare e che non ci siano persone competenti che lavorano all'interno dell'università. Spesso le cosiddette spinte, le cosiddette conoscenze non sono vere e proprie truffe ai danni degli studenti o ai danni dei soldi spesi per la ricerca, ma sono dei pupilli meritevoli, chiamiamoli così, di persone molto potenti che decidono a priori come vanno i concorsi, che in qualche modo è una mezza consolazione rispetto al quadro molto più raccapricciante che esiste in alcune università. Dico, uno come te, che ha portato avanti un progetto molto particolare sui sottotitoli per non udenti, all'estero probabilmente sarebbe stato richiesto proprio dagli enti di ricerca, dalle università, mentre in Italia ti sei un po' dovuto inventare un lavoro, ti sei dovuto sforzare, insomma, per ottenere un po' di risalto. Ho fatto questo progetto in collaborazione anche con l'Unione Europea, senza soldi ma con onore, diciamo così, e ho aperto in qualche modo un filone di ricerca non solo in Italia ma anche un po' in Europa sulla traduzione. Ho inventato in qualche modo un filone di ricerca su una disciplina che prima non era studiata nemmeno, però non sto chiedendo l'elemosina, però nessuna università mi ha contattato se non per chiedere corsi di formazione nelle università. Quindi questo significa che ancora purtroppo le discipline universitarie sono basate su vecchie aree disciplinari che raccolgono un po' tutto, ma che in realtà non sono pronti ad accogliere l'innovazione, perché per esempio io sono inquadrato come linguistica inglese quando in realtà la sottotitolazione in tempo reale potrebbe essere un'innovazione in moltissime università indipendentemente dalla lingua. Tra parentesi insegno traduzione francese contrariamente a quello che potrebbe essere il mio ambito disciplinare che viene stabilito a priori dal dipartimento all'interno del quale vinci la borsa di dottorato, indipendentemente poi da quello che sarà il tuo progetto di ricerca. Carlo, hai seguito in parte o in maniera approfondita la riforma del ministro Gelmini? Purtroppo le riforme nell'università si susseguono annualmente e è abbastanza difficile aggiornarsi ogni volta, e questo significa che io non mi sono aggiornato perché al momento non ero interessato, nel senso che io ho fatto un concorso da ricercatore, però ancora vigeva la vecchia riforma, e quindi adesso, visto che non ci sono concorsi in vista, almeno per il momento, non mi sono informato su quelle che sono le possibilità offerte da di possibilità offerte, si può parlare della riforma Gelmini. Carlo, mi sembra che ci siano alcune norme della riforma che siano abbastanza importanti e che potrebbero avere il potenziale di cambiare le cose, le norme anti-baroni che introducono una verifica sull'attività di ricerca effettivamente svolta dai docenti, e come si diceva in apertura, nella gestione dei concorsi universitari viene introdotto il sorteggio dei commissari. Cosa pensi di queste norme? Quale potenziale tu credi possano avere? Beh, in teoria credo che sia... che ci siano buone possibilità, e in realtà, conoscendo da dentro l'università, mi rendo conto che, pur sorteggiando i commissari, le persone che si occupano di determinati ambiti disciplinari sono sempre le stesse, si conoscono fra di loro, quindi a meno che non venga sorteggiato un commissario nemico personale del barone dell'università all'interno del quale viene fatto il concorso, è molto difficile che le cose cambino in maniera così netta. Senti, le persone che contano sono sempre le stesse, si conoscono tra di loro. Carlo, per quanto riguarda invece l'attribuzione dei fondi in base alla quantità, perché di qualità non si parla, ma si parla di quantità di ricerca fatta, purtroppo per una volta c'è da stabilire chi è che definisce la qualità di un articolo. Pensate che Einstein ha sviluppato la teoria della relatività in 3 pagine, oggi non sarebbe un ricercatore produttivo. Purtroppo il concetto della qualità non è stabilito da nessuno, e soprattutto in concomitanza di concorsi, proprio per far aumentare di punteggio i meriti, tra virgolette, di un candidato, il barone tende a pubblicare qualsiasi tipo di lavoro di ricerca del candidato, anche se non veramente finiti o inerenti l'ambito disciplinare per il quale si presenta come ricercatore. Maurizio, stavi facendo una domanda? Sì, Carlo, volevo sapere, tu però dici che in realtà non è cambiato molto con la riforma, però c'è un aspetto, l'aspetto dei contrattisti e della loro paga, delle loro ore, che è stato comunque alterato dall'anno scorso a quest'anno. Sono cambiate le regole per i contrattisti. Tu, che sei un contrattista all'Università di Macerata, ci puoi spiegare come? Sì, in realtà il decreto non stabilisce, cioè chi decide la paga dei contrattisti è la singola facoltà all'interno dell'università. Però indirettamente, indirettamente i meccanismi, e soprattutto in particolare quello del taglio dei fondi alla ricerca, le facoltà si trovano a dover ridurre sempre di più i costi, e chiaramente i costi che diminuiscono non sono gli stipendi mensili degli ordinari, degli associati o dei ricercatori, ma sono di quei docenti che sono sempre di più e che sono i docenti a contratto e che quindi si ritrovano con stipendi veramente, direi, miseri, ma non per autocommiserazione, scusate il bisticcio di parole, ma perché nel mio caso specifico io prendo 40 euro lordi l'ora, che se per un dipendente normale potrebbero essere un buono stipendio, in realtà 40 euro lordi l'ora significa 40 euro lordi di azione. A questo va affiancate le ore di ricevimento, vanno affiancate le ore il tutorato, vanno affiancate le ore e i giorni per gli esami e per le tesi di laurea. A conti fatti io prendo meno di 5 euro. Carlo, in apertura mi era sembrato di capire che tu comunque in un certo qual modo non giustificavi in parte forse il sistema dei baroni, nel senso che tu dicevi ora comunque dalla fine sono persone, sono i pupilli che vanno avanti. Ho capito correttamente? Sì, continua ad essere vero. Sì. Quello che dicevo era che non per forza il potere in mano di una sola persona era negativa, non per forza passava la persona immeritevole al 100%. No, però continua a non passare immeritevole al 100%. Però la mia domanda voleva essere sul fatto, la persona è meritevole, però è una persona raccomandata. Sì, e non esatto. E dunque significa che il sistema è comunque viziato? Ovviamente sì, perché sono persone che si occupano di pubblico. E dunque secondo te questo sistema, perché tu mi sembra di aver capito che lo giustifichi in parte, non ti sembra da penalizzare invece che da giustificare? No, io non lo giustifico assolutamente, è assolutamente da penalizzare. Lo capisco, capisco determinati meccanismi, e cioè nel momento in cui una persona si deve presentare per un concorso, se il mio professore è quello che farà il concorso o che sarà in contatto dietro le quinte per gestire il concorso, io vado dal mio professore e mi faccio dire più o meno come sarà il concorso. Meritoriamente il giorno dell'esame io sarò il più bravo. Nei fatti si è mantenuta l'ufficialità, la correttezza, poi in realtà ci sono questi meccanismi che portano, è sempre, nella maggior parte dei casi, persone che già hanno avuto a che fare con i professori di una data università a lavorare proprio in quella università o in università in cui c'è un docente amico, diciamo così. Un professore sia più propenso a far entrare una persona che è cresciuta all'interno di quell'università piuttosto che andare a ritrovarsi con una persona che non conosce. È deprecabile, però è forse è umano. Carlo, senti, abbiamo parlato di molte cose negative di questa riforma universitaria. C'è qualcosa da salvare? C'è qualcosa da salvare nell'università? Qualche tendenza positiva dell'università italiana? Io penso di sì, nel senso che le persone con cui sono entrato in contatto io, sia durante i miei anni di formazione universitaria, sia durante il dottorato, ho trovato moltissime persone che si danno da fare, soprattutto tra i giovani che appunto devono farsi largo per poter avere un concorso da ricercatore. Nei concorsi da ricercatore, se prima c'era un raccomandato, adesso ci possono essere su 10 candidati anche 7, 8, 9 e 9 raccomandati, quindi a quel punto vince chi è più raccomandato e non più il raccomandato, e quindi proprio in virtù di questo sistema le persone che adesso si trovano a dover fare dei concorsi da ricercatori, che sono poi il primo passo per entrare nella gerarchia universitaria, fanno molta pubblicazione e fanno molta pubblicazione gratuita oppure come investimento per avere un maggiore punteggio in concorsi futuri. Spesso questa ricerca è fatta con serietà e investendo se stessi e anche la propria vita in questo percorso. Recentemente ho fatto un concorso da ricercatore che non ho vinto, ha vinto una candidata che secondo me merita pur conoscendola poco, che però ha 43 anni. Questo significa che questa ragazza fino a 43 anni è dovuta campare con numerosi contratti a progetto, non a progetto, scusate, con numerosi contratti di docenza fatti in diverse università, spesso molto lontane le une dalle altre. Quindi se c'è da salvare qualcosa è sicuramente questa volontà da parte dei giovani dottorandi, assegnisti di ricerca, eccetera, di fare ricerca, di fare ricerca innovativa. Carlo, siamo quasi in chiusura per questo collegamento, ti vorrei fare un'ultima domanda, insomma, leggendo qualcosa, preparandoci per il tema di questa serata, mi è capitato di appunto vedere che in Italia a inizio anno è uscito un libro intitolato Un paese di baroni, pubblicato da Davide Carlucci e Antonio Castaldo, giornalisti di Repubblica e del Corriere della Sera, appunto Un paese di baroni, truffe, favori, abusi di potere, come funziona l'università in Italia. Mi chiedevo se l'hai letto, se ne hai sentito parlare, se se ne parla in Italia. Sì, ho sentito parlare, ma dice cose che non mi scandalizzano. Non so se questo è un problema per la mia onestà morale, nel senso che ci sono un sacco, molti, soprattutto però in altri settori diversi dal mio, come medicina, come giurisprudenza, come economia, cioè queste università molto più antiche, diciamo così, il sistema del baronato è molto presente. Ci sono i miei colleghi dottorandi di appunto medicina e queste altre università che contano di più, perché è chiaro che i soldi per la ricerca vanno per la maggior parte alle discipline scientifiche, e quindi essendoci più giro di soldi i baroni sono molto più potenti e spesso non si fanno scrupoli a far entrare figli e mogli a scapito della qualità, oppure a comportarsi davvero padrone, quindi richieste di prestazioni sessuali o ricerca, manodopera gratis nella ricerca. Una mia collega di medicina ha dovuto fare per 2 anni ricerca scrivendo articoli in inglese per il suo professore che non sa l'inglese, e l'articolo era firmato soltanto dal suo professore, non da lei. Adesso sta facendo il dottorato. Bene, Carlo, noi ti ringraziamo molto per il tuo contributo questa sera, per essere stato in collegamento con Giro di Boa. Carlo, grazie mille anche dalla co-conduttrice che sta all'AIA. Dunque ti auguriamo ovviamente buona fortuna nella tua carriera universitaria. Grazie mille. Ciao Carlo. Grazie. Grazie. Ciao Maurizio. Grazie, a presto. Buonasera a tutti. Grazie, buona continuazione. Siete ritornati all'ascolto di Giro di Boa, il nostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio Annalisa, Maurizio, Roberto Giave in regia, Alessandra in collegamento. Questa sera, cari radioascoltatori, abbiamo ripreso un filone già trattato a Giro di Boa in passato, l'università in Italia. Qualche mese fa abbiamo parlato del decreto Gelmini di riforma della scuola. Questa sera abbiamo parlato con un ospite in collegamento del decreto Gelmini di riordino dell'università. Sempre sullo stesso tema, Maurizio Molinari, nostro quindi collaboratore di redazione, ha realizzato un'intervista con un dottorando in Italia, Marco Ranuzzi De Bianchi, che è appunto dottorando all'Università di Pisa in relazioni internazionali. E mandiamo in onda la prima parte dell'intervista che Maurizio ha realizzato. Marco Ranuzzi, tu hai quasi finito il tuo dottorato. Puoi farci un riassunto della tua esperienza di dottorando, dare una valutazione? Sì, allora, intanto la mia esperienza di dottorando direi che la possiamo far cominciare dal triste momento dei concorsi, che è stata, diciamo, una delle parti forse anche più formative della mia vita, nel senso che ho imparato un po' come funziona e non dovrebbe funzionare forse il mondo, nel senso che io non avendo, si sa in Italia, voglio dire, i concorsi si passano sempre, spesso quantomeno con magari un po' di aiuto, conoscendo già qualcuno, eccetera, non avendo questo tipo di aiuti, io ho puntato sui grandi numeri, per cui mi sono messo a farli a man bassa tutti quelli che potevano essere di mio interesse. E nella pratica, vedendo un po' tutte le situazioni possibili e immaginabili, dal concorso in cui dopo 3 ore hanno già stati corretti una mole di compiti che in 3 ore non si possono neanche leggere, e fino al concorso che ho vinto io, che l'ho vinto perché si era passati addirittura al paradosso, ovvero piuttosto che a raccomandazione ai veti incrociati, quindi di fatto l'unica borsa disponibile, eravamo in 2 o 3 a concorrere per quella borsa liberamente come cani sciolti, e quindi insomma il concorso per me è stato anche abbastanza facile perché ridotto veramente a pochissime persone, e questo per quanto riguarda l'accesso. Poi per quanto riguarda l'esperienza del dottorato, ecco, il mio più grosso rammarico sicuramente è stato quello di quantomeno non aver provato altro una volta aver vinto il concorso, nel senso che io ero talmente incredulo del fatto di aver vinto che non ho ipotizzato di fare altri concorsi, questo è stato un po' l'errore, perché insomma mi ricordo la prima riunione del consiglio di dottorato, mi viene detto chiaramente che ma insomma no, non c'è bisogno che prendi casa qui a Pisa, io ho fatto il dottorato per l'appunto all'Università di Pisa, non c'è bisogno che lo prendi, che prendi casa, perché in fondo quello che devi fare lo puoi fare anche a casa tua. E lì ho cominciato a chiedermi allora esattamente che differenza c'è a fare università a Pisa, a Milano, a Roma o altrove, insomma fondamentalmente l'Università di Pisa era un ufficio che mi passava la borsa mensilmente, insomma. E in secondo luogo poi un'altra cosa interessante era la completa interdizione dal fare anche attività didattica, in fondo voglio dire il dottorato serve alle università per sperimentare il futuro personale, questo è un. Ah, quindi tu non potevi fare attività didattica, non potevi tenere lezioni, non potevi fare l'assistente? No, nel senso che, allora, da regolamento, dai regolamenti vari, normative che stanno dietro al dottorato, e l'attività didattica è permessa, ma solo su assenso, dietro assenso del consiglio di dottorato. E il mio consiglio di dottorato, dissero chiaramente che non avrebbero conceduto assenso, perché noi dovevamo pensare solo a scrivere, a fare la ricerca, il che da un certo punto di vista, per carità, a me poteva andare bene perché mi lasciava il tempo e lo spazio, stavo a casa mia, non dovevo rendere conto a nessuno e teoricamente ti pagavano, sì, voglio dire, per me era anche comoda, però non era una situazione che, cioè, di grande soddisfazione, non era formativa, diciamo. Tutto, sì, voglio dire, di fatto l'università non è che in questi 3 anni mi abbia dato, formato, teoricamente secondo la Carta Europea dei ricercatori i dottorandi sono ricercatori in formazione, ovvero i 3 anni di dottorato devono servire a formare un ricercatore. Se io devo dire di essere stato formato a fare il ricercatore, considerando che andavo a Pisa 2 giorni all'anno, 2, e per gli altri 363 stavo a casa oppure facevo quello che volevo io, beh, questo non penso. Ho avuto 1 settimana di lezione obbligatoria il primo anno e lasciamo perdere la tipologia di lezioni, perché qua sarebbe dal libro comico, insomma. Potremmo continuare con il discorso del tutor, che teoricamente è il docente che mi assiste e cura che la mia formazione vada di pari passo anche con la composizione della ricerca. Io tutor non ho avuto la possibilità di scegliermelo e di fatto è sempre rimasto più o meno provvisorio, naturalmente io non sapevo neanche bene chi fosse il mio tutor, nel senso che io pensavo fosse una persona invece era un'altra, e gli ultimi 6 mesi ho capito finalmente chi era, e quando nello specifico questo tutor è andato in pensione, quindi addirittura all'esame finale mi presenterà un altro che 2 settimane fa ha assunto la carica. Senti, ma tu hai avuto occasione, poi anche per il tipo di dottorato che fai in comunque studi internazionali, di confrontarti con qualcuno che ha fatto il dottorato all'estero in altri paesi europei o anche extraeuropei, e puoi farci in estrema sintesi un paragone fra quello che riceve un dottorando in Italia e quello che riceve, secondo la tua esperienza, se ne hai, all'estero? Sì, beh, penso in particolare a una persona, un'amica, che lei sta facendo un dottorato alla London School of Economics, più o meno nelle mie materie, e insomma la situazione è un po' differente, nel senso che intanto lei non ha dovuto sottostare alla pagliacciata dei concorsi, nel senso che lei ha mandato la sua proposta, ovvero che cosa mi interesserebbe ricercare, e il dipartimento l'ha approvata in quanto il dipartimento era interessato a quel tipo di ricerca, punto. Queste sono gli unici criteri che sono entrati in ragionamento. E lei non ha ricevuto una borsa il primo anno, perché in Inghilterra funziona così, ma chi è valido, chi dimostra di valere il primo anno, generalmente è sempre anche molto agevolato dall'università, sia nel fare attività didattica per il quale viene pagato, oppure nel trovare borse di studio per il secondo e il terzo anno, ed eventualmente anche il quarto. Lei un mese, una settimana ogni mese deve comunque essere a Londra per presentare i lavori, dove vengono corretti fino alla virgola, eccetera, eccetera. Io ho inserito nella mia tesi un capitolo che l'ho inserito per provocazione, per vedere se qualcuno si rende conto che quel capitolo non c'entra niente. Finora nessuno se ne è reso conto e la tesi è già stampata. No, mi è piaciuto molto l'intervento, soprattutto la parte iniziale dove racconta del suo ingresso nel mondo del dottorato, ma in fondo ho un commento da fare qui, quasi spezzare una lancia a favore dell'università e della sua struttura. In fondo, beh, la mia esperienza però è un po' diversa, è un'esperienza tecnica, un'esperienza di dipartimento di elettronica ed elettrotecnica, dove forse sì, ci sono anche lì delle cariatidi come ovunque, ma persone che magari hanno una grossa competenza, un grosso spessore accademico e anche di ricerca. Un professore deve comunque avere il diritto di scegliersi il suo allievo, il suo dottorando migliore, e lo fa come? Lo fa guardando e osservando fra i suoi studenti, perché che se ne dica, almeno nel campo della ricerca pura, dell'elettronica, delle alte frequenze, non si può dare un posto di dottorando al cognato o al nipote. Però vedi, poi tu sei venuto a lavorare in Belgio, quindi insomma qualcosa che non va con Ma io mi sono mosso col dottorato, io poi alla fine, guarda, non ho percepito neanche una lira, ho fatto 4 anni di dottorato senza percepire neanche una lira, perché l'ho fatto tutto all'estero, io sono partito dal Politecnico di Bari. Roberto, stai quindi dicendo che in ambito scientifico, tecnico, quindi in questo tipo di discipline la situazione è diversa? Sì. Beh, sì, ma come fa? Non puoi oggettivamente concedere un posto di dottorando veramente a tuo nipote soltanto perché è tuo nipote, se non è una persona che ha seguito tutti gli anni con profitto. E generalmente io ho visto tutti quelli che hanno fatto il dottorato, che hanno cominciato con me il dottorato nel mio stesso anno, erano davvero delle cime fra i miei colleghi di corso diretti. Ho provato per esperienza a fare anche a provare il concorso al Politecnico di Torino. Ho preso il treno un giorno, sono andato lì, mi ero iscritto e ho fatto il concorso. Lì non l'ho passato, e in compenso l'ha passato qualcuno che non aveva assolutamente né i titoli né neanche il titolo di laurea giusto, e veniva dalla facoltà di fisica, e ritengo che alcuni esercizi tecnici non potessero essere stati risolti nemmeno da questo candidato. Però credo che siano casi sporadici. Secondo me nel campo forse un po' più tecnico il professore, il docente o il barone conserva il suo diritto di scelta, ma lo fa comunque su una base di persone che grosso modo meritano, sono meritevoli. Poi gli può stare più simpatico uno che l'altro, ma sono sicuro che se sceglie X piuttosto che Y è perché quell'X ha imparato a conoscerlo, a volergli bene durante l'ultimo anno di studi. Comunque nella seconda parte dell'intervista parliamo proprio anche di questo, e come insomma suo solito Marco Ranuzzi fa una provocazione, insomma poi la ascolteremo. Volevo riallacciarmi alla cosa che ha appena detto Roberto, cioè lui dottorando ha fatto il dottorato all'estero, cioè significa che comunque gli studenti, i dottorandi, i ricercatori che escono dalle università italiane sono ben voluti ed accettati all'estero, dunque ciò significa che sono ben preparati, e di conseguenza vuol dire che il sistema italiano, il sistema universitario italiano, sforna comunque gente preparata. Posso soltanto dirti che nel nostro campo questo è vero. Adesso non è una generalizzazione che si può fare verso tutti, però è vero che il laureato di discipline scientifiche italiano è generalmente apprezzato, sì. E io faccio un esempio invece. Per dire che nelle discipline linguistiche è un po' il contrario, e io sono laureato in interpretazione di conferenza, e quando ho dovuto fare un test, un concorso per entrare in una scuola di giornalismo, fra i titoli c'erano le competenze linguistiche. Io, laureato in interpretazione di conferenza, perché non ho un certificato del Goethe Institute o della British School o di dell'Académie Française o di quello che è, ho avuto come titoli, come punteggio per i miei titoli linguistici, interprete 3 punti, quando il massimo era 9, e gente che aveva appunto questo certificato dell'upper intermediate della British English ha avuto 9 punti, per dire quanto poi le scuole di specializzazione si fidino degli standard dell'università italiana, insomma. Senti, tu vorresti continuare con la carriera accademica? Come vedi le cose per quanto riguarda chi, se anche tu magari non lo vuoi fare, ma chi intende continuare con la carriera accademica, e se con questa riforma, con la legge 180 del 2008, con questa riforma universitaria voluta da Gelmini, le cose miglioreranno o peggioreranno? Allora, la domanda è interessante, nel senso che io a queste condizioni no, non ho intenzione di continuare con la carriera accademica, perché oltre ad essere una vita di stenti e sacrifici, soprattutto anche una vita di mediocrità, quindi se almeno di fianco agli stenti e sacrifici ci fossero le soddisfazioni, come buona motivazione per dire certe cose, anche, ma in questi termini assolutamente no. E questo mi fa porre anche una domanda che enuncio brevemente, ovvero: lo Stato mi ha fatto in qualche modo studiare 4 anni all'università, in cui vabbè di fatto ho pagato molto poco, molto meno di quanto l'università costa, e il resto ce l'ha messo lo Stato. Per altri 3 anni lo Stato addirittura mi ha dato parte di quei famosi soldi per la ricerca, per fare di me un ricercatore. E a questo punto io, come tanti altri, non sono nella condizione di poter fare ricercatore. Ora, al di là delle mie frustrazioni personali, mi chiedo che senso abbia, da un punto di vista economico proprio, che lo Stato investa così tanto nella formazione dei propri giovani, quando dopo la laurea vanno a friggere patatine nei fast food o a fare telefonisti nei call center, ed eventualmente i ricercatori, una volta belli che formati, vanno all'estero. E quindi, voglio dire, lo Stato italiano investe per creare ricercatori per le università inglesi e americane, che ci richiedono molto. E qui arriva la riforma. Posso fare una provocazione per quanto riguarda la riforma? Alla fine, allora, questo quasi 1,5 miliardi di tagli, di euro di tagli che ci saranno fra il 2009 e il 2013 è quasi giustificato. Diciamo, a sto punto spendiamo meno per l'università, visto che è così di bassa qualità, tagliamo. Allora, il mio ragionamento sembrerebbe portare qui, ed effettivamente non è che io sia così scevro da un ragionamento del genere, perché se l'università non deve servire veramente a niente, né per formare degli enti, né per formare i futuri ricercatori, né per trovare lavoro, né per tutte queste cose, è sicuramente meglio chiuderla, non solo tagliare dei fondi. Però non è questo il ragionamento a cui volevo arrivare. Il punto è che la riforma Gelmini, in realtà io non ho visto una riforma, io vedo dei tagli, e dei tagli che potrebbero anche sottendere a una riforma, ma generalmente sono una tipologia di tagli che vengono successivamente a una riforma già fatta. Io la riforma non la vedo, nel senso che non vedo la riforma delle carriere, non vedo la riforma degli accessi, non vedo degli strumenti per invertire la famosa piramide inversa, per cui ci sono meno ricercatori e più professori ordinari. Cioè, io non vedo le riforme vere e strutturali dell'università, io vedo solo dei tagli fatti più o meno scriteriatamente. Questo non spetta forse a me a dirlo. Io, sicuramente la cosa che io sto aspettando è la tanto promessa riforma. Dopo aver fatto i tagli, Gelmini diceva: adesso faremo la riforma, daremo possibilità ai giovani ricercatori che sono bravi invece dei baroni che sono tutti quanti clientelari e nepotistici, eccetera, come se poi questo fosse anche vero, perché in realtà nell'università ci sono un sacco di baroni che sono degli ottimi docenti, un sacco di ricercatori che non hanno niente di meglio da fare e quindi pascolano all'università. Si parla di un generico controllo della qualità delle università, ma non si specifica come deve essere fatto. Ma non è possibile, nel senso che ci sono 3.000. Allora, faccio un breve esempio, per cui nella riforma, nella cosiddetta riforma, c'è un taglio dei fondi, per cui il ministero dice: voi università, se volete più fondi, potete andarveli a reperire tranquillamente sul mercato, trasformandovi in fondazioni di diritto privato. Benissimo, andiamo a vedere se questo è possibile. Questo in realtà non è possibile, perché per le normative che ci sono adesso, se io azienda privata, che so, del settore della meccanica, voglio finanziare un posto da ricercatore, sono sottoposto a tutta una serie di vincoli, balzelli, non posso vincolare i soldi che io do a un determinato tipo di ricerca. Insomma, è impossibile che un'università nel momento attuale vada a reperire fondi sul mercato, perché sul mercato non c'è nessuno che risponda a darglieli all'università italiana, e quindi è inutile dire potete trasformare in fondazioni. E allora, se non abbiamo creato il sistema un sistema più complessivo in cui ci sia una propensione da parte del settore privato al finanziamento della ricerca, questo è un gioco che non funziona, non può funzionare. Secondo te si potrà migliorare la regolarità dei concorsi col metodo del sorteggio che viene introdotto con questa riforma? Sì, forse sì, ma anche se lì comunque ci sono una serie di micro dispositivi tali per cui comunque le università riescono in qualche, le università e i dipartimenti riescono in qualche modo ad andare a giostrare su alcuni aspetti della scelta, dell'individuazione dei candidati, ma non è tanto quello il punto, perché comunque sia le persone che formano le commissioni di determinate materie sono poi tutto sommato abbastanza poche, ci si conosce. Io professore ordinario che entro in una commissione, per quanto sorteggiato, so chi c'è nella commissione, eventualmente a qualcuno devo un favore, a qualcuno me lo deve, ci sono tutta una serie di meccanismi che non vengono eliminati da solo sorteggio. Io sarei molto più classico, io eliminerei il concorso, perché in fondo se un dipartimento ha bisogno di me sarebbe anche giusto che mi possa chiamare direttamente. E questo però perché non si fa in Italia? Perché sennò si creerebbe solo del clientelismo. Però se il clientelismo, se questo tipo di eliminazione del concorso lo associamo a dei meccanismi che rendano responsabili delle proprie decisioni chi le decisioni le prende, ovvero cioè tu puoi prendere anche tuo figlio a lavorare, ma se poi non rende sei tu a perdere il posto, e allora forse già si, come funziona del resto nel mondo anglosassone. Io non sono un estimatore del mondo anglosassone per tante cose, però per queste sì, perché comunque le università vediamo che funzionano.